siamo finalmente riusciti a collegarci con Count Ferdi, batterista dei Blue Beaters. Ciao, benvenuto. Ciao Peter, grazie, ciao a tutti. Intanto avete appena fatto il soundcheck, quindi vi state preparando per il concerto di questa sera. Io vorrei iniziare però parlando dagli esordi, dagli inizi, per chi ancora non vi conoscesse, anche se dubito che tra i nostri ascoltatori non vi conoscano, però per chi magari non vi conoscesse, se ci vuoi raccontare come nacquero i Blue Beaters allora, 30 anni fa. Esatto, 29 anni fa per la precisione, nel 94, sono nati Blue Beaters da fusione di alcuni membri di Casino Royale, di Africa Unite e Fratelli di Soledad ai tempi, da un'idea di Zorro, il chitarrista dei Fratelli di Soledad, è nato questo gruppo che doveva essere solamente una one night band e poi invece, visto il successo del primo concerto di Hiroshima Mon Amour a Torino, è diventato un gruppo vero e proprio. Con varie fasi, ovviamente all'inizio era un divertissement per quelli dei Casino Royale degli Africa che ci suonavano e poi è diventato un gruppo vero e proprio più avanti negli anni, diciamo nel 99 quando abbiamo fatto The Album, il primo disco della band, fatto tutto venduto online, fatto da noi, pagato da noi e tutto quanto, insomma, autoprodotto okay. Diciamo, e distribuito più che altro appunto da casa, cioè lo vendevo via posta praticamente, perché ancora non c'era la carta di, cioè c'era la carta di credito ma la gente non si fidava molto. Sì, non c'era Amazon, era altri tempi. No, erano altri tempi completamente, quindi mi arrivavano dei vaglia che sembravano le 1000 lire degli anni 20, non so, sì. Dei fogli giganti, andavi con questi fogli e ne abbiamo venduti 10.000, cioè. Sì, sembra incredibile, no? Perché parliamo di 20 anni fa, però sembra ormai quasi preistoria da questo punto di vista. E voi appunto l'anno prossimo festeggiate i 30 anni di attività, avete iniziato nel 94, sicuramente era completamente diversa la scena musicale di inizio anni 90. Secondo te com'è cambiata soprattutto la scena, quella ska del vostro stile, com'è cambiata rispetto ai giorni d'oggi? Ma guarda, allora, noi non siamo stati, siamo sempre un po', forse con un po' in modo snob, forse tenuti un po' fuori dalla scena ska, eccetera, perché comunque in realtà non c'era proprio una vera scena ska, no? C'è stata forse nei primi anni, cioè metà anni 80, un po' di più, poi dopo era abbastanza, sì, c'era qualche gruppo, ma non è che proprio ci fosse una scena vera e propria, e comunque il mondo della musica dagli anni 2000, da fine 90, primi 2000, è cambiata completamente, cioè adesso è proprio un altro mondo, e però paradossalmente adesso che c'è, diciamo, forse meno pubblico che ascolta in generale, cioè ci sono meno gruppi forse, non so, a me mi dà questa idea, c'è meno la cosa del gruppo di musicisti, eccetera, ci sono più DJ, più computer e rapper, cioè musica sì, completamente diversa, e però la scena, paradossalmente la scena, diciamo ska o comunque giamaicana eccetera, è quasi più unita adesso che prima, capito? C'è stato secondo me un grosso cambiamento, ma soprattutto in tutta la musica italiana proprio. Adesso è veramente, a volte in certi posti è veramente difficile suonare, nel senso che la gente non ha l'attenzione di ascoltare un gruppo, quasi. Sì. Cioè, quando sei un po' conosciuto va bene, allora poi diventi, ti seguono, cantano i pezzi perché ti conoscono, eccetera. In altri posti magari non ti conoscono benissimo e quindi, però non, la gente fa fatica a partecipare, non so come dire. Sì. È proprio diverso, è completamente, la scena musicale è proprio cambiata in maniera abbastanza repentina a metà anni 2000. Sì, secondo me ha influito molto anche il fatto dell'online, della fruizione della musica, diciamo, digitale, perché ovviamente prima o avevi il CD per ascoltartelo che riuscivi a comprarlo, se no, se volevi sentire la band dovevi per forza andarti a vedere il concerto. Adesso fai un click su internet e sì, ti sì, senti tutta la discografia. E te esatto. La godi di meno sicuramente che rispetto a un live. Sì. Voi avete iniziato con Giuliano Palma, che nel 2012 ha lasciato la band per la carriera solista, quindi avete avuto un anno di stop, poi avete ripreso il primo album pubblicato, Everybody Knows, nel 2015 avete ripreso lo stile vostro classico, quello appunto di cover, soprattutto di brani inglesi, poi però il secondo album, Shock, invece avete totalmente cambiato, siete passati a brani inediti in italiano. Quindi c'è stato questo bel cambiamento. A cosa è stato dovuto questa voglia di cambiare? Ma allora, quando ci siamo, diciamo che appunto i primi 18 anni con Giuliano sono stati una cosa, poi appunto lui ha deciso di fare la sua carriera solista, quindi all'inizio avevamo alla voce Patrick, Mr. T-Bone, c'era anche Lady Solmaia, c'era un po' di più gente, perché abbiamo proprio ripreso il nome dei Blue Beatles in mano, senza la E commerciale, diciamo, senza Giuliano Palma and the Blue Beatles, proprio si è diventati i Blue Beatles, e poi Patrick ne appunto ha fatto questi ultimi due dischi. All'inizio volevamo fare un disco per rimetterci, cioè abbiamo detto facciamo un disco che sappiamo fare le cose, che alcune cose che erano rimaste fuori negli anni, pezzi che avremmo voluto fare. Poi Patrick ha comunque portato delle idee leggermente diverse da quelle per esempio di Giuliano sulla scelta dei pezzi, eccetera. Patrick ha una voce fantastica, e poi a un certo punto siamo un po' accorti che insomma c'erano delle tendenze tra qualcuno di noi al nostro interno, che si voleva scrivere delle cose proprie, perché comunque volevamo metterci alla prova con cose inedite. E allora abbiamo incontrato Matteo Romagnoli, che purtroppo ci ha lasciato settimana scorsa per un, perché stava male, a 43 anni. Sì, nella Garrincia Dischi. Di Garrincia Dischi, è stata una perdita enorme, perché è una persona veramente geniale, a parte aver portato lo Stato Sociale appunto comunque a successo, aver contribuito a creare una carriera, cioè a scoprire anche un sacco di altri gruppi, rappresentanti di Lista, Ex Otago, insomma ha fatto tantissime cose, e ci siamo incontrati con lui, c'è stata subito molta affinità su tante cose, e con lui diciamo che abbiamo creato quest'idea di poter collaborare con un sacco di personaggi e artisti nuovi, che alcuni conoscevamo, altri no, e abbiamo iniziato a scrivere in italiano. Patrick già scriveva delle cose sue in italiano, per cui abbiamo lavorato molto bene. Purtroppo poi c'è stato il lockdown, si è fermato veramente tutto. E adesso stiamo facendo un nuovo disco, poi l'anno prossimo sarà il trentennale, adesso uscirà la settimana prossima un singolo, una cover in inglese, che si chiama Trinity, e poi faremo uscire un singolo, diciamo, verso ottobre, che anticiperà l'album, che siamo ancora in fase abbastanza embrionale. E comunque sì, c'è stata insomma un'esigenza proprio di provare a dire delle altre cose che non prendere pezzi di altri e metterci il nostro vestitino, insomma, ecco. Anche se nella scelta dei brani ovviamente c'è sempre anche la ricerca di, comunque al di là del pezzo, della melodia, eccetera, c'è anche comunque una ricerca di testi che insomma dicano delle cose, che poi siano, insomma, non è che prendi un pezzo e lo fai così, cioè deve avere un significato, un senso, no? Per all'interno di tutto il nostro bagaglio di pezzi che abbiamo rielaborato negli anni. Certo, infatti quella è insomma una sfida base, ovviamente fai un pezzo, non deve essere banale, deve avere un suo significato, soprattutto è stata anche una bella sfida il fatto che il vostro stile in inglese ci va a pennello, ma con l'italiano già è un po' più difficile adattarcelo, non è proprio facilissimo, ecco, ci vuole bravura, esperienza. No, devo dire che ci sono delle, è proprio, ce ne parlavamo, guarda, l'altro giorno, ci sono certi pezzi che in italiano in qualche modo diventano una mazurka in un attimo, non so come dire, dipende dagli accordi, dipende dalla melodia, cioè dipende da tante cose, quindi abbiamo fatto su un disco, ci abbiamo messo tanta roba diversa anche, diciamo non cose abituali che abbiamo sempre fatto con i Beatles prima, è stato un esperimento. Adesso sinceramente siamo in una fase in cui stiamo cercando di capire un po' come accorpare diverse cose che facciamo, no? Perché anche dal vivo facciamo appunto pezzi in italiano, pezzi che facevamo con Giuliano, pezzi che abbiamo fatto con Patrick in inglese, insomma è un misto che vorremmo in qualche modo mantenere, però proprio i pezzi in italiano suonano diversi, non c'è dubbio, cioè, sì, suonano proprio diverso se utilizzi tanti accordi. Di solito quando prendi un pezzo, cioè quando noi prendiamo un pezzo e lo facciamo, lo rendiamo ska, rocksteady alla giamaicana, ovviamente devi, come dire, piallarlo, no? Devi togliergli degli accordi che lo abbelliscono in un altro genere, ma nel genere giamaicano devono essere più ritmici, devono esserci quasi meno accordi, non so come dire. È molto più semplice, no? Da arrangiare, però dipende quali accordi usi. Poi ovvio che ci sono dei pezzi che sono piaciuti tantissimo e abbiamo detto facciamoli, cioè comunque abbiamo fatto un po' di, comunque, di tentativi, no? Di cercare di trovare una strada un po' più originale della nostra, che comunque nel panorama dello Sky era anche abbastanza originale, proprio perché si rifaceva anche gli originali, adesso questo gioco di parole, però poi ovviamente il risultato è, secondo me, un disco fatto molto bene, ovviamente particolare per la nostra storia. Sì, poi anche lo stile, diciamo, c'era sicuramente un tocco in più di pop e anche un po' di rap, dovuta anche alle varie collaborazioni che avete fatto, come quella con Willy il Peyote, come sono nate, esatto, Coez. Ma quello per varie, sì, rapporti di amicizia che avevamo con lui, soprattutto Patrick, anche con Diego Mancino. Comunque, appunto, abbiamo cercato in giro, invece di andare, non so, come spesso molti artisti che magari non scrivono vanno a cercarsi i pezzi, l'editore dei pezzi o la casa discografica gli propone degli autori, noi ce li siamo cercati tra gente che conoscevamo e con cui avremmo voluto condividere un momento musicale, per cui c'è stato Bianco, appunto Coez, Willy Peyote, tutta gente con cui o abbiamo collaborato, qualcuno di noi ha suonato e comunque ci si becca in giro. Con Willy, insomma, a Torino ci si incontra piuttosto che con Diego Mancino a Milano, nel senso che poi appunto abbiamo conosciuto tutto lo stato sociale e tutto il gruppo delle persone intorno a Matteo Romagnoli dello stato sociale, e abbiamo conosciuto nuove persone fantastiche e abbiamo vissuto, devo dire, un paio d'anni per fare questo disco molto belli, anche di ricerca, di esperimenti e di nuovi contatti, no? Per cui ci sta anche che appunto fa il pezzo dove c'è il rap di Willy Peyote o il featuring di Coez, perché comunque sono esperimenti. Volevamo allargare un po' anche musicalmente, abbiamo inserito organi, suoni più moderni, pop, pur mantenendo, diciamo, una struttura che fosse il nostro suono, no? Che è abbastanza particolare, anche se non è nuovo, ma è particolare. Secondo me. Certo. Allora, prima di lasciarci, siamo arrivati quasi al termine della puntata. Ricordiamo, questa sera in concerto qui a Bologna. Come sarà questo concerto? Cosa si aspetterà il pubblico? Ma insomma, suoneremo appunto tendenzialmente cose di soprattutto di The Album, qualche pezzo minore, non i pezzi che hanno definito Giuliano nel panorama delle radio, dell'airplay in generale, più altre cose un po' più giamaicane, poi i pezzi di Everybody Knows, di Shock e qualcos'altro di altri dischi, ma insomma diciamo che è una panoramica, un best of del nostro bagaglio culturale, ecco, soprattutto ovviamente incentrato su cose che abbiamo fatto con Patrick alla voce. Bene, poi ovviamente speriamo anche qualche inedito del prossimo album, farebbe sicuramente piacere sentirlo. Settimana prossima, teoricamente venerdì prossimo dovrebbe uscire Trinity, che è il nostro nuovo singolo. Che poi è la cover di Trinità. È la cover di lo chiamavano Trinità. Quindi sì, è una bella colonna sonora. Tra l'altro è una base che avevamo già registrato, sarebbe dovuta entrare in Everybody Knows, è rimasta lì a metà, l'abbiamo finita, l'abbiamo data a un'etichetta tedesca per far entrare in una compilation di un festival, però ci piaceva molto e quindi abbiamo deciso che, insomma, la faremo uscire quest'estate. Bene, bene, allora ci vediamo tutti questa sera. Ti ringrazio, Ferdi, è stato un grandissimo piacere averti ospite ai nostri microfoni. Ci vediamo questa sera a goderci il concerto. Dai, vi aspettiamo numerosi. Grande, grazie. Grazie mille. Ciao. Grazie, Peter.